Lei che dice? Abbiamo avuto una buona idea? Ci Good aiuta? idea, come direbbero i miei amici anglosassoni. Very good idea. Con l'inglese che parliamo io e te, Nicoletta, non lanciare per carità queste idee. Marchigiano. Perché li traumatizziamo questi bambini. La pancia borbotta. Sed panciam borbottam, non so. Sì, quella della baguette jambon beurre. No, l'ho lasciata a te perché tu hai una pronuncia francese. Hai visto? Eccezionale. Che non so se sia preparato sul gossipon, ma avrà un corazon. Buongiorno Luigi. Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Vi presenta Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Sopra un'onda che mi tira su, rotolando siamo arrivati in un paradiso. Siamo a Bari, in diretta da Italy, dalla nostra postazione quasi quasi vediamo il mare. Sì. Deborah, quindi tu che sei la tecnologica della coppia, sì, scatterai delle foto che posteremo in tempo reale su Facebook. Guarda, quando hai detto la parola rotolando pensavo che già ti riferissi al mio giro vita ed ero un po' in allarme, invece no, non è andata così. Allora, intanto tanta bella gente che ci ha accolto a Bari, ha raccolto il nostro invito, grazie a tutti per essere qua. E soprattutto tanta bella gente che potrà approfittare degli esperti che abbiamo interpellato qui a Bari. E tra poco noi vorremmo capire tutti i segreti, intanto della vostra dieta, e soprattutto vorremmo capire se la vostra dieta può fregiarsi del titolo di dieta mediterranea. D'altra parte siamo qui e come potevamo lasciarci scappare l'occasione così ghiotta per parlare di questa dieta dal punto di vista del cuore, certo, e dal punto di vista dei denari. Lo faremo con degli ospiti straordinari che abbiamo qua in studio con noi e di cui voi che siete qua presenti potrete approfittare, ma naturalmente potranno farlo anche i nostri ascoltatori. Tra l'altro non ce li siamo portati da Milano, ma li abbiamo trovati qua. Perché ovviamente non sono per caso, persone però della vostra terra, esperti della vostra terra. Eccoci. 800 24 00 24, il nostro numero verde è già a vostra disposizione, per cui iniziate o forse continuate a chiamarci e a scriverci al 349 238 6666. Raccoglieremo naturalmente anche le domande dal pubblico, ma Deborah, andiamo ai nostri esperti. Certamente, comincio con chi è qui alla mia destra, il dottor Roberto Capone, che è capo del Dipartimento Agricoltura Alimentare, Sviluppo Rurale Sostenibile dello IAMB, Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, che è qui vicino a Valenzano. Certo. Dottor buongiorno. Capone, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Grazie. Naturalmente fa questo, ma fa anche tante altre cose ancora, e soprattutto ha scritto questo libro che le persone che sono qui con noi oggi possono vedere, Mediterra, anzi poi troveremo magari un gioco per capire se lo possono guadagnare e possono portarlo mi a piace, casa. Mi piace molto, e qua accanto a me ho il piacere di avere il dottor Agostino Grassi, che è un medico nutrizionista ed è segretario della Fondazione Dieta Mediterranea. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie per lo straordinario. Ci ospita Italy, tra l'altro, bravi con l'applauso, perché un po' di incoraggiamento non ci fa mai male, perché non crediate che noi siamo abituate a tutto questo. Ci ospita Italy, lo dobbiamo raccontare, dove c'è il meglio sicuramente del Made in Italy agroalimentare italiano. E allora, oggi parliamo di dieta mediterranea. Sì, con un modello alimentare che, come ha sottolineato l'UNESCO, va proprio oltre il concetto di cibo. Il termine stesso deriva dal greco, lo sappiamo, significa stile di vita, proprio ad indicare, direi, la valenza sociale e anche culturale della dieta mediterranea. Modello alimentare, dicevamo, che considerando gli effetti positivi sulla sfera sociale, economica e ambientale, si può considerare altamente sostenibile per l'ambiente, per l'economia e anche soprattutto per la salute. Ma vogliamo dare un significato alla parola sostenibile, di cui che sentiamo spesso nominare, certo, e la decliniamo naturalmente, come sempre, dal punto di vista del cuore e dei denari. E certo, allora cominciamo con il primo giro di tavolo. Cominciamo con il nostro nutrizionista. Che cosa vuol dire una dieta mediterranea quando parliamo di una dieta sostenibile, dottore? È già il termine portarlo sulla salute comincia ad avere delle difficoltà, perché mentre è facile parlare di una sostenibilità ambientale, di una sostenibilità economica, quando lei parla di salute pensa fare con successo, è inevitabile invecchiare, ma bisogna invecchiare bene, e come soprattutto poi curarci. Quindi se voglio individuare la parola sostenibile nella salute, la devo inquadrare verso questi obiettivi, soprattutto evitare la malattia, quindi evitare di pensare a una dieta come un farmaco, ma pensare a un modello di vita, un modello di dieta che impedisce di ammalarmi. Impedendo di ammalarmi, io non sarò un costo sociale, non solo non sarò un costo sociale, ma potrò vivere la mia vita piena di anni, arrivare a una vita soddisfacente che mi permette di viverla piena in modo molto autosufficiente. E questo è assolutamente dimostrato, perché negli ultimi anni sono state pubblicate ampie e significative ricerche che danno proprio importanti segnali dell'esistenza di questo rapporto causale tra la dieta mediterranea e la riduzione di molte malattie, le malattie che noi chiamiamo del benessere, che sono poi malattie croniche che, come anticipava il nostro dottor Grassi, poi comportano dei costi, e sappiamo che il nostro Servizio Sanitario Nazionale è in difficoltà. È un po' in difficoltà, quindi abbiamo il dovere di mantenerci sani a lungo. Andiamo adesso invece a fare magari un giro nel mondo, dottor Capone, perché uno dei problemi di più stretta attualità è proprio quello relativo alla sostenibilità dei sistemi alimentari moderni, no? Noi abbiamo delle economie che nel mondo stanno crescendo, per fortuna, diciamo anche eccezionale, però fanno incetta di materie prime. Se voi pensate a quello che succede in Cina, stanno da qualche tempo cominciando ad alimentarsi in maniera molto diversa, non si mangia più, per fortuna loro, naturalmente solo riso, ma chiaramente stanno un po' emancipandosi dal punto di vista alimentare, ma questo comporta chiaramente squilibri di altro genere, no? Che cosa sta succedendo nel mondo? Fondamentalmente nel mondo stiamo assistendo ad un allineamento delle diete alimentari. Cosa significa? Significa che fondamentalmente i nostri sistemi alimentari non sono più sostenibili per vari motivi, perché sono fortemente dipendenti dall'energia fossile, dalla manodopera a basso costo, dai trasporti su lunga distanza, e generano anche forti emissioni di gas a effetto serra e favoriscono l'erosione della biodiversità e il depauperamento anche degli ecosistemi. Essi fondamentalmente non hanno risolto il problema della fame nel mondo, certo, e hanno anzi creato dei problemi opposti, che sono quelli del sovrappeso e dell'obesità. Io ricordo i dati della FAO a tal proposito. Il problema della distribuzione della ricchezza, no? Esatto, che è la prima problematica, diciamo, delle regole dell'economia. Esatto, questo accade perché i meccanismi che regolano oggi l'alimentazione sono legati più alla quantità piuttosto che alla qualità. Quindi le diete che la maggior parte del mondo segue sono diete che basate su prodotti zootecnici, quindi la carne, i prodotti caseari, lo zucchero ed i grassi. Questo accade perché anche aumenta il reddito, come certo diceva lei, perché aumenta il reddito delle fasce medie delle popolazioni. È quello che sta accadendo nei cosiddetti paesi BRIC, quindi Brasile, India, Russia, Cina, la Russia un po' meno forse, però sono i paesi che hanno in cui si prevede che entro il 2020 la fascia media della popolazione, soprattutto in Cina, arriveranno a circa 63 milioni le persone con un reddito intorno ai $30,000. Se pensate che il reddito medio italiano è di $30,500, quindi 63 milioni di cinesi avranno un reddito italiano, certo, quindi con un impatto sulle risorse naturali e sulle economie notevole. Certo. Con grande, naturalmente, opportunità per il Made in Italy alimentare, che sicuramente può andare a cavalcare l'onda di queste crescite economiche, tant'è vero che per esempio Oscar Farinetti, il patron di Italy, queste opportunità in giro per il mondo le va cercando, però appunto, come diceva il dottor Capone, si determina, come dire, una sfera di disequilibri, certo, di tipo. Dottor Grassi, voleva aggiungere qualcosa? La vedevo attento sullo squilibrio . Lei quando ha sentito parlare obesità, sovrappeso, già subito il dottor Grassi era lì pronto. Che ci voleva dire? Questo era un elemento fondamentale, perché Roberto parlava di numeri. Voi immaginate che sostituire il 5% delle nostre calorie giornaliere con proteine di derivazione animale aumenta il rischio di sviluppare il diabete del 30%. Quindi una piccola... Notate che piccoli numeri, 5% di calorie giornaliere, io vi parlo di 90 calorie, di 80 calorie, di quello, veramente piccole... Mi faccia un esempio, un'immagine, 80-90 calorie sono, corrispondono a una bistecchina. Se io sostituisco questa bistecchina, se io invece di mangiare le stesse calorie derivate da un piatto di pasta e legumi, li mangio sostituendoli con una bistecca, aumento del 30% il rischio di avere diabete. Ecco, questi numeri già vi fanno capire l'impatto di cosa significa una dieta sostenibile per quanto riguarda la salute. Vedo già dei messaggi da parte degli ascoltatori che non possono essere qui a Bari, ma ci stanno scrivendo da lontano al 349-238-6666. C'è chi osserva: la vera dieta mediterranea è bilanciata più sugli alimenti vegetali che animali, qualcosa che al giorno d'oggi nessuno segue. È vero, e dottore. C'è di più, dottor Grassi, non la seguiamo, abbiamo detto in apertura dieta mediterranea a chi non la conosce, ma in realtà le cose non stanno davvero così. Pensate che un gruppo di ricercatori guidati dal professor Antonio Vittorino Gaddi, che è specialista di medicina interna a Bologna, hanno fatto un'indagine ed è risultato che l'80% delle persone intervistate dichiara sì di conoscere la dieta mediterranea, ma quando si va un pochino più a scavare, ecco, si scopre che la dieta mediterranea in realtà pochi la conoscono. Allora sembra quasi, no, una cosa straordinaria, dover raccontare in Italia, a Bari, da Italy, che cos'è la dieta mediterranea. Ma bisogna tornare a fare questa sorta di lavoro di promozione, perché la dieta mediterranea, in effetti, forse la conosciamo solo per nome, ma nelle nostre tavole arriva qualche cosa di molto diverso dalla dieta mediterranea. Quindi, intanto che passo la parola al dottor Grassi, vorrei invitare proprio i nostri ascoltatori, lo state già facendo, e se dal pubblico volete intervenire, per darci una definizione, una composizione, e soprattutto raccontarci se la dieta mediterranea è il vostro stile alimentare o se l'avete un po' Possiamo farci raccontare come hanno composto l'ultimo carrello della spesa, no? Magari rimuginate un po', questa settimana sarete andati tutti al supermercato o al mercato, se scegliete il chilometro zero, cosa avete portato a casa? Quali sono gli alimenti che quotidianamente compongono la vostra tavola, quando qua la si imbandisce, perché siamo generosi, a tavola qui in Puglia, non possiamo dimenticarlo. Dottor Grassi, intanto lei, come si dice sempre nelle trasmissioni televisive, può dare un aiutino. Ecco. Anche se non è un quiz. Che dice? Lei stavo sorridendo per l'ambiguità del mio cognome su questi argomenti. Anch'io devo dire noi che abbiamo pensato la cattiveria anche noi. Il nutrizionista che si chiama Grassi è veramente uno scherzo del destino. Vi assicuro però che il mio BMI è perfettamente nel normale a dispetto del mio cognome, forse anche perché seguo la dieta mediterranea. Anche Capone richiama qualche concetto un po' grassino, ecco, però dopo ne parliamo magari. Allora, bene, dottor Grassi. Bene. Ha fatto bene a sottolineare il definire la dieta mediterranea. Innanzitutto la parola dieta mediterranea noi la dobbiamo a un epidemiologo statunitense che arrivò in Italia a seguito delle truppe di liberazione durante la Seconda Guerra Mondiale, questo è Ansel Keys. Fu lui che, facendo questo lungo percorso nei paesi del Mediterraneo, che lui sbarcò a Creta, poi nel Nord Africa, risalì tutto il Sud Italia, si accorse che le abitudini di quelle popolazioni, quindi io vi parlo degli anni 60, le abitudini di quelle popolazioni portavano ad avere meno malattie di quelle che lui invece vedeva prevalenti negli suoi Stati Uniti, quindi l'obesità, il diabete. Infatti lui è stato poi furbo, cosa ha detto? Io mi fermo in Italia. Ed è morto lì e viveva a Pioppi. Lui si fermò, sì, in questa bellissima... Un americano intelligente, insomma. Perfetto. Ed è morto 2 anni fa, alla soglia dei 100 anni, proprio lì nel Cilento, dove aveva acquistato casa e dove viveva. E cosa mangiava tutti i giorni? Guardi, le caratteristiche sono facilissime. L'unico grasso da aggiungere alla nostra alimentazione deve derivare dall'olio extravergine di oliva. Questa forse è la parte più fondamentale della nostra dieta. L'unico condimento aggiunto, l'olio d'oliva. Quando lei diceva guardiamo nel carrello della spesa, io vi inviterei a leggere quante volte trovate nelle etichette degli alimenti l'addizione grassi vegetali. Paradossalmente, vuole sapere una delle grosse ambiguità sanitarie? Quando noi ci rivolgiamo a un professionista per la dieta, ci riduce l'olio. Ma nessuno ci parla di andare a individuare gli altri grassi che entrano nella nostra alimentazione. Un altro dei capisaldi che noi avevamo nella dieta mediterranea era l'uso della frutta a guscio, cosiddetta. Io riferisco frutta a guscio quella che comunemente noi chiamiamo frutta secca. Noci, mandorle, pinoli, tutte le cose. Noi siamo preparatissime. Guardi, sulla frutta, noci, noccioline, pistacchi. È vero. Lei sfonda una porta aperta. Che erano gli snack naturali dei paesi del Mediterraneo. Tutti gli studi epidemiologici a cui lei faceva riferimento prima dimostrano che se io sostituisco lo snack con la frutta a guscio perdo peso, curo meglio il diabete, eventualmente sono in presenza di diabete, mi evito le malattie degenerati, soprattutto i tumori. Mm-hmm. Questo era un altro dei caratteristiche. Certo. Infatti individuavo in quattro pilastri la dieta mediterranea: l'ulivo, la vite, il vino rosso, i cereali, il grano e le mandorle. Tenete conto che mandorle che stanno per noci, noccioli, pistacchietti. Sì, sì. Basta che non siano salati, perché questo, oppure ricoperti di zucchero, perché lì non vale. E non confondete con gli... i confetti. Non solo, non confondete con le arachidi, che sono legumi e che vanno comunque bene, ma sono legumi, non è più frutta secca. Bravo, e qua cade l'asino. Cadono gli asini. Va bene, comunque allora, questi sono i quattro pilastri. Questi sono i quattro pilastri della nostra alimentazione. A fianco a questo noi avevamo la ritualizzazione dell'uso della carne. La carne era un cibo sacrificale. Vi racconto un passo dell'Odissea. Ulisse, quando giunge da Calipso, Calipso lo invita a mangiare il cibo degli dei per dargli l'immortalità. Ovvio. Lui dice: io sono della civiltà del pane, mangio il frutto del mio lavoro. Ecco, questo sintetizza il concetto della dieta mediterranea. Si dovevano capire tante cose. No, perché... prima di iniziare la trasmissione, il dottor Grassi mi ha mostrato un'immagine con delle fette di pane e tutto il sale che questo contiene qualche volta, quindi anche lì dobbiamo un attimo fare l'attenzione, perché qua è straordinario, io mi ci tufferei dentro il pane di queste zone, però... anche lì, ecco, un altro... Questo, ho fatto vedere quell'immagine perché... Che ce la manderà, perché la vogliamo far vedere agli amici di Cuore Denari, ce la girerà. Ecco, in questo studio si criticava come l'aderenza alla dieta mediterranea comportava poi una maggiore presenza di ipertensione. Mm-mm. Vedete come è cambiato l'alimento. Pensate il pane dei mediterranei, loro lo pestavano a pietra, quindi non lo raffinavano molto. Ovvio. La lievitazione era acida, la classica lievitazione naturale, il lievito madre, come volete dire. Veniva mangiato raffermo, non veniva mangiato il giorno, ma a lungo. Il pane lasciato qualche giorno si retrograda, quindi la sua velocità di assorbimento, il suo indice glicemico si abbassa moltissimo. Quella era la tradizione del pane. Quindi da questo suo racconto noi tiriamo fuori un'indicazione per chi ci sta seguendo. Il pane mangiato al raffermo. Mangiato raffermo, lievitazione... integro, come dice il dottor Grassi, meno raffinato. E poi una lievitazione naturale. Una lievitazione acida naturale, questo abbassa l'indice glicemico. Non ci siamo dimenticati di lei, dottor Capone, perché adesso l'interrogazione inizia anche per lei, perché soprattutto ci interessa capire, visto che questi messaggi che ci sembrano qualche volta un po' scontati da tante parti non arrivano, e dobbiamo capire anche voi come IAMB che cosa fate per sensibilizzare la collettività su questo, su tutti questi argomenti. Ci sono degli ascoltatori pronti ad intervenire, ma come vedi sono le 11:28 e anche se sono a Bari la borsa mi insegue e quindi dobbiamo raccontarvi cosa succede oggi sui mercati finanziari. Torniamo tra poco, 800 24 00 24, per chi invece ci segue lontano da Bari naturalmente possono tutti intervenire in diretta. Tra poco. Cuore e denari. Il pane frittata di mia madre non si batte. Perché non è che bastano due fette di pane e una frittata per fare il pane frittata che fa mia madre. Se al pane frittata che fa mia madre gli levi mia madre, rimane un panino con la frittata. Generico, semplice, banale, ordinario. Se invece al pane frittata che fa mia madre gli levi il panino con la frittata, rimane... beh, mia madre. Zitta bella. Che può sempre farmene un altro, che magari le viene meglio o peggio. E lì uno può fare dei paragoni. Oltre al gusto del pane con la frittata c'è il gusto della sorpresa, dell'imprevisto, che è il sale della vita. E anche di quel pane a frittata. pane frittata da Basilicata Coast to Coast. Noi torniamo a parlare da Bari, siamo a Italy, della dieta mediterranea. Chi la segue ci guadagna, dottor Grassi, potremmo dire così. D'altra parte lo dicono soprattutto i dati di tantissime ricerche che correlano proprio la dieta mediterranea alla longevità. Nel nostro paese ci sono sempre, cresce il numero dei centenari, e forse questi centenari sono proprio le persone che, avendo la dieta mediterranea nel sangue, applicandola, hanno guadagnato salute e vita. Ma vogliamo capire dai nostri ascoltatori quanto il loro modello alimentare è vicino o si è allontanato dalla dieta mediterranea, perché abbiamo scoperto che ne parliamo tanto ma ne la conosciamo poco. Allora, siete in grado di consumare le famose 5 porzioni di frutta e verdura? 800 24 0024, lo chiedo anche a voi dal pubblico. Quale condimento utilizzate? I legumi, che sono protagonisti di ricette della nostra tradizione che il mondo ci invidia, li invitate spesso a tavola? Quanto spesso? E poi la frutta a guscio, come l'ha descritta il dottor Grassi, quindi noci, nocciole, pistacchi, mandorle, non salate naturalmente, fanno parte della vostra dieta? Li utilizzate come snack in alternativa alle merendine? Siamo qui per raccogliere le vostre descrizioni delle vostre carrelli della spesa e per farvi dare naturalmente un aiuto dai nostri esperti. Allora, ci sono due ascoltatori pronti ad intervenire, Giuliano da Parma e Graziano da Fermo, però vorrei chiedere loro ancora un minutino di pazienza, perché con il dottor Roberto Capone dello IAMB, l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, vorrei capire qual è stato il percorso che ha portato la dieta mediterranea a diventare patrimonio dell'UNESCO. Sì, perché è una bella storia. Assolutamente, la dieta mediterranea è stata riconosciuta nel 2010 a Nairobi dall'UNESCO Patrimonio Intangibile dell'Umanità. Noi come istituto di Bari, come organizzazione internazionale, abbiamo contribuito alla redazione del dossier di candidatura nazionale insieme all'Ex-INRA, con il professor Dernini e il povero professor Carnella, che tutti quanti potete ricordare nelle trasmissioni di Quark. Quindi abbiamo scritto noi quella parte che ha avviato poi la candidatura, che è stata poi uniformata agli altri dossier degli altri paesi. E il riconoscimento dell'UNESCO va visto come una misura di salvaguardia per la dieta mediterranea. Nicoletta diceva prima che la dieta mediterranea, tutti conoscono la dieta mediterranea o quantomeno ne hanno sentito parlare, però in realtà il ne modello alimentare un po', mediterraneo, ecco, un po' interpretato dalla ecco. dieta mediterranea è un è stato olio riconosciuto d'oliva. Patrimonio immateriale, perché è in pericolo di erosione, perché certo. non la segue più nessuno nel Mediterraneo, non solo qui a Bari o nella Puglia. È un grosso problema, e quindi il riconoscimento va visto in quest'ottica. Come tutela. Esatto. Perfetto. E allora abbiamo anche forse qualche intervento dal pubblico. Chi è che voleva intervenire dal pubblico? Perché vi dovete alzare e avvicinarvi presso quel microfono, appunto, che adesso il nostro Marco Lombardo, che come al solito si prende cura di noi, adesso ci aiuta, appunto. Facciamo, è proprio una cosa bella, perché guarda come facciamo. Mi spiace che non possano vederci tutti gli altri amici. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei si chiama? Antonio Caradorio, sì. E io ho l'intervento da pediatra. Il problema della dieta mediterranea è che, si diceva, molti ne hanno sentito parlare, però nella pratica quotidiana del nostro lavoro, della nostra professione, lo scostamento, la discrasia tra ciò che fanno i bambini, e cioè ciò che acquistano i genitori per i loro figli, è un qualcosa che assolutamente desolante. Il sud dell'Europa, cioè proprio coloro che si affacciano sul Mediterraneo, hanno la più alta incidenza di obesità, e noi troviamo una grossissima difficoltà a far passare dei messaggi che ci vengono distrutti quotidianamente dalla pubblicità. Come fa lei il suo lavoro educativo in questo senso? Come lo svolge quotidianamente? Abbiamo provato in vario modo. Abbiamo provato sia singolarmente, cioè un rapporto uno a uno, cioè pediatra-genitori. In realtà non c'è la capillarità. Abbiamo provato con le scuole, ma le scuole sono anche lì una situazione a macchia di leopardo, ci sono situazioni che rispondono e altre meno. Certo. Abbiamo provato come organizzazione sindacale, cioè cercando di coinvolgere quanto più... Associazione pediatri, dice. Sì, esattamente. Però anche lì non abbiamo la diffusione sul territorio, ovvero la chiave di volta, secondo me, secondo noi, siete voi. Ovvero, queste trasmissioni sono utili, ma occorre, diciamo, scendere a un livello o anzi forse salire a un livello più alto, riuscire a far passare questi messaggi brevi, come ha fatto esattamente il, non so se collega o benissimo, il collega nutrizionista, in modo molto molto chiaro, semplice, affinché il carrello della spesa rappresenti il termometro, certo, della conoscenza. Infatti, come se nutrirsi secondo i dettami della dieta mediterranea fosse un sacrificio, no? Perché parliamo anche ma di lo questo. È, perché il concetto essenziale è la merendina, assolutamente sì. E dovreste fare anche delle alleanze con le aziende, dottore? No, non possiamo fare le alleanze, anzi siamo stati in qualche modo buttati fuori da un certo tipo di know-how. Il problema essenziale è proprio questo, ovvero una delle domande più frequenti, più ricorrenti nel nostro ambulatorio, nella nostra pratica, è il bambino, a Bari si dice, non in Italia, non mi mangia. Non mi mangia. Cioè, non si abboffa del panino con la frittata. E questo è un problema che noi vedremo fra qualche decade, per cui adesso se abbiamo i centenari è perché loro vivevano in un certo stile di vita. Noi fra qualche decade ci troveremo di fronte non più a uno spread di tipo economico, ma a uno spread di tipo salutistico, che sarà molto, molto più grave. Costoso. Grazie mille, Antonio, grazie tante. È vero, il bambino non mi mangia e la mamma giù con le merendine. Invece la mamma dovrebbe al bambino dare un po' quello... Pane e pomodoro? Pane e pomodoro, un filetto, un filo d'olio, extravergine d'oliva, due mandorle... No, l'impepata di cozze subito, perché non va bene. Nel pomeriggio la vedo un po'... Ma però per le cozze, vero, è sempre l'ora, dottor sempre Grassi. L'ora, sempre l'ora. Allora, sentiamo invece chi da tutta Italia vuole intervenire, appunto, e vuole dirci la sua sul tema che stiamo affrontando questa mattina. Avevamo pronto da un po' Giuliano dalla provincia di Parma, dove pure non è che si scherza a mangiare bene. Giuliano, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Se la ride Giuliano, la risata. In effetti io, essendo in Emilia Romagna, il colesterolo qui ha alti livelli. Ascolti, oggi ho apprezzato... È un professionista del colesterolo. No, Giuliano, alto, lei è un professionista? Del colesterolo, però l'avevo sui 280. Dopo 6 mesi, un anno di dieta, chiamiamola mediterranea, è andato a 180, quello totale. Un colesterolo HDL, quello cosiddetto buono, superiore al massimo, cioè 70. E ascolti, oggi voi siete particolarmente, diciamo, come si può dire, nel tema, perché belle, coniugate il giovanetto benessere con la Debora, che è il settore economico, nel senso che con questa dieta mediterranea aumenta il benessere e diminuiscono le spese della sanità delle varie ASL, perché se diminuisce il diabete, se diminuisce ipertensione, sicuramente tutto lo Stato ci guadagna. Io mi sono avvicinato a questa dieta dal professor Berrino, che è un ricercatore che forse ci sarà conosciuto. Certo, ma noi l'abbiamo avuto tantissime volte, grande amico di Radio 24, di Cuore Denari, dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. No, ma poi tra l'altro, esatto Giuliano, ma poi mi chiedo, ha fatto dei grandi sacrifici modificando le sue abitudini alimentari? Assolutamente, io ora che mangio, non so, riso integrale oppure il farro integrale oppure l'avena, li trovo molto più saporite e gustose che non... Ora se mi danno un piatto di riso bianco, lo trovo... È proprio così, quello dell'ospedale, insomma, con e la patata lessa. Giuliano, grazie. L'olio extravergine, l'olio evo, ecco. In Italia la legislazione attuale permette che vengano venduti oli dal nome extravergine... dove non c'è specificato chi ha prodotto, dove vengono le olive, e quindi siamo in un santuario per queste battaglie qua, oltre che in una regione. Giuliano, pensi che il dottor Grassi me lo confermerà, l'olio extravergine d'oliva è considerato un farmalimento proprio per le sue proprietà terapeutiche. Avremo sicuramente occasione insieme ai nostri esperti di dare delle indicazioni per, e vedo che dal pubblico qua presente si annuisce, perché è un po' il principe della nostra dieta mediterranea, e qua c'è l'olio buono. Ma intanto abbiamo allora Graziano dalla provincia di Fermo. Telefonata marchigiana, non sia mai. Graziano, buongiorno. Avanti Marche, Graziano, sì, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto con molta felicità, perché sapete essere brave. Una cosa sappiamo, io volevo intervenire su quello che riguarda la dieta. È dieta mediterranea, però se voi sapete o dirmi qualcosa, perché mi sto interessando su internet, per la dieta alcalina e la dieta acida, che diciamo, rappresenta anche la dieta mediterranea, perché la frutta e la verdura, che dovrebbe essere al 70% del pasto quotidiano, rappresenta l'alcalinità del corpo. Ecco, se qualcosa in merito dei vostri specialisti che sono lì. E questa è una domanda da girare al dottor Grassi. No, adesso io qua devo fermare tutto perché sono le 11. Sì, perché sembra? Sembra che l'abbiamo perso, Graziano, però abbiamo. Diciamo che meglio, lo sentiamo un po' tratti. Va bene, Graziano, ci faremo supportare dal professionista, però dopo aver sentito nel resto delle strade italiane cosa sta succedendo. Andiamo. Cuore e denari. Bianco e azzurro sei, con le isole che stanno lì, le rocce e il mare. Allora, vi sintetizzo un po' gli sms che stanno arrivando, ma anche le telefonate. Molti vogliono avere degli esempi pratici di pasti di dieta mediterranea, in modo che da domani in tanti si comincino a cambiare le abitudini. Quindi li faremo adesso. Qua sfornelleremo un po'. Nicoletta, qua ti devi cimentare tu, perché tu lo sai che io non è che sia proprio la regina della cucina. No, ma te la cavi. Comunque, ci scrive un ascoltatore. Mio padre salentino, dottor Grassi, stia attento, 90 anni e gioca al pallone con i nipoti da anni. Il mattino si beve un po' di olio di oliva e una manciata di pinoli. Pensate che colazione. Questo, vede? Chi è, chi è che annuisce qua? Anche lei fa una colazione di questo tipo? Da bambino. Adesso la facciamo avvicinare al microfono, così la sentono anche da casa. Intanto, un esempio di... allora, che pranziamo oggi, dottor Grassi? Che mettiamo a pensi tavola? Pensi un bel piatto di spaghetti aglio e olio, mm-hmm, e pensi una piccola porzione di pesce contornato da una varietà di colori di verdure e ortaggi. Eccolo e qua. Questo è un esempio di dieta mediterranea. Di dieta mediterranea. Perché un amico dell'ascoltatore che ci sta scrivendo al 349-238-6666 dice: seguo la dieta mediterranea, un mare di cibo, perché si mangia parecchio. Parecchio pesce. E il nostro amico che ci è venuto a trovare qua a Bari ci racconta Natale. In effetti, da piccolo abitavo in campagna con i genitori, la mattina un cucchiaio di olio d'oliva, fatto chiaramente da mio padre, fatto biologicamente quanto, ed era ottimo, oltretutto faceva bene al corpo, diciamo. Esatto, metteva a posto l'intestino perché diciamo le cose che vanno dette. Venivano curate anche altre malattie, insomma, voglio dire. Ma Natale, lei sa che ci ha preso un po' come ho fatto io, perché il dottor Grassi ci racconta che quel pizzicorino che sentiamo quando... Ma non posso parlare, devo far parlare il grande esperto. Natale, voleva aggiungere? Sì, adesso chiediamo magari loro che sono dei tecnici, degli esperti, la qualità dell'olio, come deve essere. Bravo. Perché in effetti io, cambiando dall'epoca adesso, è diverso. Cioè l'olio che faceva mio padre, che facevamo noi in campagna, aveva un gusto tutto diverso da questo attuale. Insomma, sarà forse la qualità delle olive, sarà, non so, qual è il motivo. Allora, andiamo all'olio d'oliva. Allora. Poi faccio dire anche alla sua, dottor Capone. Lei ha parlato di un valore culturale, forse lei ha molto in ricordo come si viveva ai tempi della campagna e si raccoglievano le olive, eccetera, perché in questo caso l'avanzamento della tecnologia invece ci ha dato la possibilità di salvaguardarlo meglio l'olio. E l'olio, un po' come è successo col vino, dottor Grassi. Certo. L'olio è un patrimonio. Prima di tutto, guardate, è l'unico olio che noi ricaviamo da un frutto e lo ricaviamo per semplice premitura, mentre tutti gli altri oli derivano da semi per distillazione. Quindi noi non abbiamo solo la ricchezza del grasso, ma abbiamo una quantità di sostanze che normalmente li addebitiamo alla frutta. E in questo caso, ecco, vi voglio sottolineare un aneddoto. Un esperto di farmaci, un americano, fu invitato a una degustazione di olio. Lui studiava l'ibuprofene, sapete quel farmaco antinfiammatorio. Sì, sì. Assaggiando l'olio appena munto, sentì quel pizzicore in gola che gli ricordava l'ibuprofene e scoprì che c'è un antiossidante nell'olio che chiamò olio cantale, che è uguale come molecola chimica all'ibuprofene e ha la stessa azione farmacologica. Quindi lei parlava dell'olio d'oliva come farmaco, guardi quante cose. E aspettate, conosciamo poco ancora di questo mondo dell'olio d'oliva. addirittura conosciamo poco. Allora, e qua posso dire che entrano in gioco però i signori dell'Istituto Agronomico. Perché loro conoscono. Perché? No, che cosa fate per farlo conoscere? Studiate ancora le proprietà dell'olio d'oliva, quello autentico? Noi studiamo le proprietà dell'olio d'oliva, ma studiamo le proprietà della dieta mediterranea in generale, la sostenibilità della dieta mediterranea, perché non è detto che da un punto di vista qualitativo un prodotto che fa parte della dieta mediterranea sia sostenibile o da un punto di vista ambientale. È chiaro che la sostenibilità è un concetto che interessa la nutrizione, interessa l'ambiente, interessa l'economia, interessa la cultura, e quindi il nostro approccio è un approccio multisettoriale. È chiaro che dire che la dieta mediterranea oggi è sostenibile è una cosa che ancora non la possiamo dire, la stiamo studiando, perché può essere sostenibile da un punto di vista nutrizionale, fa bene alla salute sicuramente, fa bene all'ambiente, sicuramente fa bene all'ambiente in quanto l'impatto sulle risorse naturali è minore rispetto a una dieta a base di carni. Fa bene alla cultura sicuramente, alla società. Da un punto di vista economico, la dieta mediterranea è alla portata infatti, delle tasche mi dà un assist perfetto, perché Alessandra, alla mail di Cuore e Denari, scrive: la dieta mediterranea non è proprio un sacrificio per me, ma i fagiolini o le melanzane a 4,50 euro al chilogrammo, almeno io non me li posso permettere. Qua vedo che pure i nostri amici qui in studio sono d'accordo. Allora, fagiolini e melanzane, dottor Grassi, in questa non è proprio la stagione. Noi troviamo ormai prodotti tutto l'anno, ma la melanzana non è di marzo. Ecco, dottor Grassi, quindi è vero che la crisi ha in qualche modo condizionato le nostre scelte, modificato il nostro modo di fare la spesa, dobbiamo fare delle sostituzioni, dei compromessi, acquistare magari un prodotto invece di un altro. Voi invitate ad acquistare prodotti di stagione e possibilmente a chilometro zero. Lei ha ragione, però non è tutto vero quello che diciamo. È vero che l'incremento di costo degli alimenti cardine della dieta mediterranea è stato esponenziale rispetto a quanto sono aumentati il costo dei grassi. Però guardate, sostituire le proteine animali che compriamo sotto forma di carne con una piccola porzione di legumi al giorno fa bene al portafoglio ed è molto più economico, ed è verso la dieta mediterranea e mi fa spendere meno in sanità. Sostituire un pasto di carne con un pasto di pasta e legumi mi fa risparmiare moltissimo, mi fa vivere meglio. Io volevo pigliare l'assist dal collega, dal pediatra che diceva prima. Noi sappiamo che la dieta mediterranea protegge dall'obesità, non siamo autorizzati a dire che non seguire la dieta mediterranea porta all'obesità, perché sappiamo che sono meccanismi molto, molto, molto più complessi. Però dobbiamo, come dice lei, ritornare a questo valore culturale, a questo valore aggiunto di quelle tradizioni che portano, e lì abbiamo responsabilità anche noi spesso, perché noi abbiamo per anni costretto a ridurre il consumo degli alimenti cardine protettivi a vantaggio di pseudodiete, di libretti di istruzione che hanno portato a distrarci dalla dieta mediterranea. Le ripeto, guardi nelle diete come era trattato l'olio d'oliva e non trovate una parola contro altri tipi di grassi. Allora, intanto una signora, i miei nipoti, scrive, non so se sia una nonna o una zia, chiaramente. Sarà una zia. Certamente. Ai miei nipoti per merenda pane e olio del Garda, passata di pomodoro di casa, origano del mio orto. Dottore? Chilometro zero, dieta mediterranea. Posso dire che anche Michele, mio nipotino, è appassionato di pane e olio, ma proprio appassionatissimo, per cui adesso... Allora, di olio parleremo, vero Deborah, subito dopo le notizie del nostro GR, per cui preparate anche le vostre domande all'800 24 00 24. Il dottor Grassi ci ha dato delle indicazioni: inseriamo più spesso i legumi in sostituzione, quindi queste proteine vegetali in sostituzione delle proteine animali. E poi non dobbiamo fare confusione con i concetti dell'alimentazione biologica, non so se le due, come dire, strade si uniscono ad un certo punto, sono totalmente separate, no? Noi dobbiamo salutarci, ma ritorniamo subito dopo il GR. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati in diretta, siamo qui. Abbiamo quasi fame. Tu lo sai che io ce l'ho sempre, questo non è un problema che, come dire, sul quale mi devi sensibilizzare, e poi a furia di parlare di dieta mediterranea e di tutte le bontà che compongono questo regime alimentare che in realtà fa parte della nostra storia, della nostra tradizione, è venuta fame un po' a tutti, anche agli amici che sono venuti qui molto gentilmente stamattina nella nostra diretta. Grazie per l'applauso a seguirci dal Palazzo di Italy. E allora parliamo di dieta mediterranea, abbiamo scatenato gli ascoltatori che stanno andando a fare la spesa e chiaramente ci stanno raccontando con che borsa della spesa stanno tornando a casa. Un ascoltatore su Facebook o ascoltatrice ci scrive: patate dolci, lenticchie rosse, farro, fave secche, amaranto, uva e fragole. Qua poi mi dovete dire l'amaranto a che cosa serve. Dovevamo rispondere all'ascoltatore di Fermo, che è rimasto un po' lì poverino in sospeso sugli alimenti. È rimasto lì fermo. È rimasto fermo, da fermo, e adesso gli rispondiamo, ma abbiamo anche Pietro che gentilmente a microfoni spenti ci raccontava di queste meravigliose colazioni che prepara per suo nipote il mattino, addirittura noci e frutta secca all'interno della frutta, sì, di qua, a cui toglie il torso. Sì, di una mela. E poi che cos'altro? Va bene, allora dicevo, ho la fortuna di essere 4 volte nonno e accompagno 2 dei miei 4 nipoti a scuola al mattino a piedi. Bravo. Con la strisciatina, detta la milanese. E preparo la merenda a questi 2 nipoti. Allora la mia domanda era questa: io preparo un sandwich acquistato dal forno, no? Un sandwich poco più di una rosetta, un puro una rosetta, farcito con del miele, con delle mandorle, o con la marmellata fatta dalla nonna, certo. O pane e pomodoro. Allora l'abbinamento del sandwich con il miele o con le mandorle, l'abbinamento con il pomodoro, è sana questa, certo, cosa qui. E poi voleva sapere qualcosa sulla qualità del pane, no? Sulla qualità, certo, del pane. Il sandwich come viene, non so come viene cotto. E il pane viene morbido, preparato, tipo pancari. Dottor Grassi? Un po' di attenzione, perché spesso dietro questo soffice, questo palatabile, si nascondono dei grassi, quindi chiedere proprio dei grassi che al dottor Grassi non piacciono, no, come d'altra parte a tutti i medici in generale. Nessuno ama se stesso. Quindi il consiglio, quindi, per il nonno Pietro io penserei al pane comune, tipico pane pugliese. Non sono molto convinto degli zuccheri, perché il pane è di per sé zucchero, il pane è amido, è glucosio. Quindi il sandwich con il mielino non lo metterebbe? Non voglio criminalizzarlo assolutamente. Una volta a settimana? Aggiungerei più pomodoro e olio, ritornando a questa tradizione culturale. Ma non diventa monotono poi per i bambini? Ecco. Per questo alternare, ricordandosi che è preferibile non esagerare. Una volta il panino, una volta la mela, una volta pane pomodoro, una volta pane e miele, che il dottor Grassi chiude. Loro mangiano volentieri, volentieri. Mangiano volentieri. Non hanno proprio il confronto a scuola, insomma, dove si mangia magari la merenda. A volte c'è un confronto a scuola, è la maestrina, perché il bimbo fa la terza elementare, il secondo fa la prima elementare, diventa un tema di confronto rispetto agli amichetti che si presentano con la merendina. Però, e quant'altro. Però dai, nonno Pietro, diventiamo un po' ambasciatori della dieta mediterranea, esatto, portiamola, e un po' anche l'impegno che avrà la Fondazione Dieta Mediterranea, no? Divulgare e far conoscere sempre di più questo stile alimentare di cui... Allora, diciamo subito poi che cosa fate, intanto poi andremo anche agli AMB. Guardi, le faccio un piccolo esempio, se me lo permette. Se lei piglia un mucchietto di pietre, le mette uno sull'altro, farà un bel muro, una bella colonna, ma saranno delle belle pietre. Se lei guarda un anfiteatro romano, un tempio romano, rimane affascinato, perché le parla di una cultura, le parla di una civiltà che le ha permesso oggi di arrivare qui. Questo valore aggiunto, che è il bello valore che l'UNESCO vuole tutelare, è quello che la Fondazione vuole dare alla dieta mediterranea, cioè divulgare quella grande cultura, perché guardate, quelle civiltà sono nate proprio per questo modello alimentare, ed è quel modello culturale che ci ha permesso di arrivare oggi a noi. Questo può diventare il valore aggiunto alle nostre produzioni, e quindi fare l'altra strada, non quella dell'educazione alimentare, che costa troppo e da poco come resa, ma cominciare un cambiamento culturale di ritorno alla tradizione. Ecco, questa è la sfida che la Fondazione ha voluto. Guardate che perché la Puglia, il sindaco del mio paese, il sindaco di Ostuni, prima ancora che l'UNESCO dichiarasse la dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, insieme al professor Crepaldi, lungimiranti, capirono che avevamo questo patrimonio culturale e dovevamo tutelarlo, e si prodigarono, tant'è vero la sede della Fondazione è una messa a disposizione, uno dei più bei palazzi storici pugliesi, per accoglierla. È questo che vogliamo, questo cambiamento culturale negli enti, nella mentalità dei nostri amministratori, nella nostra mentalità, come fa lei con il bambino che gli prepara l'ambitanza mediterranea. È la Fondazione ha questo impegno di divulgare questo concetto. A fianco il dottor Capone, Roberto, fa parte del comitato scientifico della nostra fondazione, a fianco a portare avanti questa importante visione da un punto di vista economico, culturale, di sostenibilità ambientale. Allora, ci sono Claudia da Roma e Silvana d'Arezzo con le loro racconti, le loro testimonianze, però sempre in termini di divulgazione di questi messaggi e di questi concetti. Lo diceva il dottor Grassi, appunto, anche voi come Istituto Agronomico del Mediterraneo, appunto di Bari, fate un grandissimo lavoro. E domani, per cui lo dico a chi è qua e se volete andare a curiosare a Valenzano, c'è un'altra iniziativa, c'è uno spettacolo che appunto l'Istituto presenta in anteprima. C'era una volta il waste, che è un modo all'italiana di appunto esprimere il waste all'inglese, che è cibo, cioè, diverse insomma accezioni. L'appuntamento è alle 17. Io so anche chi saranno i protagonisti, perché sono due amici del nostro programma, che sono l'avvocato Massimo Melpignano, che è responsabile locale dell'Adusbef, ma si sta dando un grande da fare per la lotta al sovraindebitamento e tutte le problematiche economiche delle famiglie, e Antonio Caglietti, che invece è un ex consulente finanziario che adesso si è dato proprio alla divulgazione. Dalla finanza loro sono arrivati all'alimentare, perché voi li avete scoperti e gli avete chiesto di organizzare, attrezzarsi con uno spettacolo per così un po' divulgare la questione, il problema dello spreco alimentare. Noi siamo partiti proprio da quello che dicevamo in apertura di trasmissione, che siamo partiti dalla insostenibilità dei sistemi alimentari che producono in maniera inefficiente e insostenibile, e tutto quello che producono alla fine viene, un terzo di tutto quello che viene prodotto viene sprecato. Sono praticamente, dando alcuni numeri, circa 1,3 miliardi di tonnellate che ogni anno nel mondo vengono sprecate, un quarto dell'energia contenuta in questi alimenti. Quindi abbiamo che la maggior parte di questi alimenti sono frutta, verdura, tuberi e patate, mm-hmm. che vengono sprecati perché deperibili più facilmente. E se si pensa che i paesi industrializzati sprecano 222 milioni di tonnellate, che è pari alla produzione alimentare netta dell'Africa subsahariana, già cominciamo a capire di che numeri stiamo dando. Su tutta la catena alimentare sono varie le fasi in cui si spreca. Si parla di perdite alimentari nella fase della produzione e della prima trasformazione e post raccolta. Quindi questa è una fase più propria nei paesi in via di sviluppo. Quindi il 65% viene sprecato in questo modo. Il 40% invece, che è un tipo di spreco più dei paesi industrializzati, e si verifica nelle fasi della distribuzione, vendita al dettaglio e consumo. Certo. E quindi insomma, una volta che si apre il frigo non si sa quello che succede, una volta che tiriamo fuori il primo alimento siamo già pronti a buttarne via un po'. Allora, io, dottor Grassi. Roberto, non solo questo, volevo che sottolineassi quanto spreco di terreno per produrre cereali per biocarburanti. Siamo arrivati a questo paradosso. Potremmo aprire un dibattito per tutto il pomeriggio. Ritorneremo sul tema, ma dottor Grassi, io non vorrei sprecare il tempo che abbiamo a disposizione per rispondere. Affermo rapidamente. Poi gli ascoltatori ci chiedono 5 porzioni di frutta e verdura. Fatecele vedere, immaginare. Fateci il piatto. Consigli per l'acquisto e il consumo di olio. Solo a crudo, solo extravergine d'oliva? Le metterei un tan parta. Al nostro radioascoltatore di Fermo, vi tutto un saluto particolare, perché pochi sanno che Ansel Keys, quando promosse il Seven Country Study, che dimostrò la dieta mediterranea, uno dei centri dove furono valutate le abitudini alimentari era Monte San Giorgio, vicino Fermo. La dieta più alcalina, la dieta più alcalina che noi conosciamo come modello è la dieta mediterranea, che è povera di carne, perché è povera di carne e ricca di cereali. È la dieta più alcalina in assoluto. E quindi il nostro amico di Fermo. Le cinque porzioni, importantissime le cinque porzioni di frutta e verdura, perché la mancanza delle 5 porzioni di frutta e verdura aumenta il rischio di tumori. Però non confondete che mangiare più frutta e verdura protegge, la mancanza delle 5 porzioni. Non dobbiamo esagerare, perché la frutta nasconde gli zuccheri. Come fare le 5 porzioni? Un frutto a colazione, ad esempio, anche sotto forma di frutta a guscio. una porzione di contorno non molto grande ma molto colorata a pranzo e un frutto a pranzo, una porzione di contorno di ortaggi e verdura non molto grandi ma molto varia e un frutto a cena, ecco le cinque porzioni. Quindi abbiamo risolto. Non c'è da fare pensate a questo periodo, pasta e piselli, il tempo dei piselli, un'insalata e un frutto. Ho già le mie... Ma lei è anche così virtuoso a casa, dottor Grassi? Secondo me sì, sì. Ma secondo me abbiamo due... Anche lei, Capone, o qualche volta sgarra, siete bravissimi. Qualche volta sgarra. Olio solo extravergine d'oliva e solo a crudo o anche cotto. L'olio... dedicheremo una puntata intera al farmalimento. L'olio d'oliva ha una ricchezza di antiossidanti che lo proteggono anche durante la cottura. Addirittura, guardate, alcuni antiossidanti, tipo il licopene del pomodoro, se soffritto con cipolla diventa più potente. Quindi. Chiaramente l'olio d'oliva non va bruciato, per cui certo a crudo ne sentite le qualità organolettiche più evidenti, ma però anche cotto. Allora, dobbiamo Silvana d'Arezzo e Claudia da Roma, aspettateli, vediamo se dopo aver fatto gli incipit oppure scrivete col movimento della mano. L'iniziativa Cuore Denari Vitali, ogni settimana invitiamo gli ascoltatori a completare dei racconti i cui incipit ci sono stati scritti dal nostro scrittore preferito che è Andrea Vitali. Abbiamo gli incipit di questa settimana, cominciamo subito con il primo che è quello, scusami ti rubo la parola, ma è quello di Cuore, andiamo. Nel mondo parallelo della chirurgia addominale si cita il caso di una donna, sessantenne, sposata, casalinga, madre di tre figli a loro volta sposati e all'epoca ancora senza prole, che viene ricoverata per essere operata di calcoli alla colecisti la settimana precedente a una scadenza elettorale di rilevanza nazionale. Pur se irrilevante ai fini della presente storia, la donna si definisce apolitica e in genere prima di votare chiede consiglio al marito e lo segue pedissequamente. L'intervento fila liscio. La donna si risveglia verso sera solo un poco rimbambita a causa dell'anestesia. Ha sete, ma le viene comunicato che sino al giorno seguente non potrà assumere liquidi. La mattina successiva, poco prima di sorbire una tazza di tè alquanto slavato, si accorge di una cosa e chiama immediatamente il chirurgo, cui chiede come mai le abbiano messo un sondaggio nell'addome. Il chirurgo allora... Andate sul sito di Radio 24, ho completato questo racconto con la parola chiave... Dieta, questa è la parola chiave del racconto di Cuore. Potevamo sceglierne un'altra, d'altronde andiamo all'incipit del racconto di Denari. Nel mondo parallelo dei ricordi, due amiche che non si vedono da tempo si stanno scambiando confidenze intime. «Mi pento», dice una, «per aver detto troppi no a mio marito quando eravamo fidanzati». L'ho fatto anch'io, asserisce l'altra. A dire il vero, nemmeno dopo sposati sono stata troppo generosa di me, aggiunge la prima. Beh, interloquisce l'altra, se devo essere sincera, nemmeno io. E lui? Lui sempre gentile, sempre comprensivo, per nulla pretenzioso. Oh, santo cielo, ma sembrano gemelli. E il tuo come sta? Ma non lo sai, è morto. E il tuo piuttosto? Morto anche lui. Ma quando? Altra balbetta, perché... E qua vi voglio perché la parola chiave da inserire nel completamento è ovviamente mediterranea. Allora, chi abbiamo scelto la settimana scorsa? Sono Mattia e Sandra, potete leggere i loro racconti sulla pagina di Cuore Denari. Mattia e Sandra si sono misurati con delle parole molto più difficili, esatto, perché avevamo chiesto di inserire nel racconto polifenoli per la parte del cuore, a proposito dottor Grassi. E trimestrale ovviamente nella per la parte dei denari. Allora, abbiamo forse 3 minuti di tempo, riusciamo addirittura a sentire Silvana d'Arezzo che è sudata. Silvana, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti la sua dieta mediterranea. Ecco a lei. Innanzitutto, vada Silvana. Mi sente? Malino. Un po' malino, dica. Sono nel cuore di Firenze, sto andando a trovare mio padre che è un esempio di dieta mediterranea perché ha 96 anni, ha sempre mangiato passionosamente e cose genuine, poca carne, un bicchiere di vino e soprattutto l'olio biologico che tra l'altro da 20 anni produco io in provincia di Arezzo. A proposito di... Benissimo, Silvana, siamo pronte per venirla a trovare. Sì, grazie. E, a proposito di olio, dobbiamo forse rinunciare a produrlo, visto che le spese sono maggiori di guadagno, cioè non c'è nessun ricavo, niente, assolutamente. Però noi ci crediamo e lo facciamo magari solo per noi, certo, biologici, eccetera. E quello che dispiace è che certo, in commercio... E abbiamo, Silvana, grazie Silvana, abbiamo, purtroppo la sentiamo veramente male. L'aspetto economico, Capone, mi pare di non poco rilievo. E Silvana ha sintetizzato forse un messaggio che qua starà a cuore a molti. Un problema soprattutto in particolari annate, e sicuramente è un problema che va risolto, e ovviamente per risolvere questi problemi abbiamo gli interventi della politica agricola comunitaria da Bruxelles, quindi è chiaro che bisogna fare i conti anche con queste politiche. Tenga duro Silvana, mi raccomando, non perda questa battaglia. Un'ultima raccomandazione sull'olio, riusciamo a farla con il nostro nutrizionista. Dottor Grassi, andiamo alla quantità. Cucchiaini, cucchiai, bottiglie. Qui mi rifaccio ai famosi LARN, che significa livello di assunzione raccomandata di nutrienti, che dicono che il 30% delle calorie giornaliere devono essere consumate sotto forma di grassi, prevalentemente da monoinsaturo, quindi d'olio d'oliva. Se parlo di una spesa media di un uomo sedentario di 2000 calorie, il 30% sono 600 calorie. Mm. 600 calorie, una parte di grassi noi li mangiamo in altro modo con i secondi, 4 cucchiai d'olio al giorno sono mangiati. Perché tenete conto che quando si cucina parte dell'olio rimane nelle padelle o in fondo ai piatti. 4 cucchiai d'olio io credo che siano un'indicazione più che allora, giusta. Grazie al dottor Grassi, stiamo terminando, sicuramente avete ancora delle domande, potete come sempre fare, scriverci a Cuore Denari, noi gireremo le domande ai loro nostri e esperti. Intanto l'ultimo messaggio arriva dal signor Pietro che ci scrive, il signore dello studio che ci dice la zuppa primaverile è ideale, vero, secondo lui, carciofi, fave, novelle, piselli. Magnifica, molto si bella. Mangia anche a Roma con la menta, la mentuccia. Grazie noi ai partiamo. Nostri ospiti naturalmente, grazie domani. A Roberto Capone e Agostino Grassi per domani essere stati io rimango qua, cara mia, perché io mi vado a vedere lo spettacolo a Valenzano e io poi torno te lo racconto, su. Ma te lo racconto. Grazie, a domani da grazie Milano. A tutti, grazie, a presto. Cuore e Denari.